installa qualcosa lì. Siccome era nuovo, è durato pochi giorni, poi niente. Spedito indietro, sostituito, senza battere ciglio. Invece per un altro apparato cos'era? Era un Polmar digitale, un PMR digitale. Anche lì uno ha smesso di funzionare, non riceveva più, mi pare, morto, mutto. Spedito indietro, sostituito subito, senza stare a mandare in assistenza, che poi lasciamo perdere l'assistenza Polmar, proprio quella lasciamo perdere. Anch'io ci ho portati lì dove era Polmar, DB10, boh, ma tranquillo, lo danno per 10 watt, ma l'ho misurato, ma forse ne dà malapena 8, forse, che non sono pochi. Però non è un granché, non lo so, non mi sembra il top, da. Ehi, vediamo se Gianni ha finito di chattare. Ehi, diciamo di sì, dai, io mi devo preparare, devo portare giù il cane, ma sono già le 8. Meno 10. Cavolo, è la serata, vabbè, fortunatamente se n'è andata. Ok, già, dai, buon proseguimento di serata, buona passeggiata col cane. E ci sentiamo in migliori condizioni, dico sempre così, poi mamma mia, guarda, vai Franco. Ehi, capo, ciao Gianni, dai, un abbraccio, ben sentito dopo tanto. Bisogna organizzare qualche pizzata di nuovo, come vecchi tempi. Lo facciamo quando vuoi, non c'è problema per me. Ciao, buona serata, grazie del questo. Mi ha fatto piacere che ti ho sentito dopo tanto tempo, vai. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Ciao, buona continuazione, ciao. Ciao Gianni. Quindi Franco, questo 3009 che ti dicevo è uscito nel 2023. Se tu guardi, apri l'apparato, vedi metà apparato vuoto e metà c'è questa scheda del 7009, o qualcuno ha detto che è più simile al 7009 che al 5005. Adesso mi sto impapinandomi con queste sigle, che poi il 5005 sarebbe il 6009. Dimmi cosa devo cercare, dimmi cosa metto nella stringa. Allora scrivi Superstar 3009-2023. Guarda, lo vende Efileco Elettronica e lo vende technologyshop.it. Puoi attaccargli il cavetto per la programmazione, che quella è assolutamente da comprare, perché puoi fare tante finezze in più collegandolo al computer. Poi vabbè, a chi non interessa se lo usa così, per dire. Ma è tipo il mio, senza frequentimetro, così, tipo il mio, esteticamente sembra uguale. Tu avevi il Samurai, come si chiamava? Quello che è del Profeta, col display verde, no? Con il frequenzimetro verde. Sì, quello è senza frequenzimetro. Praticamente è un volgare 3009 all'esterno. Gli hanno cambiato il microfono, che ha il condensatore ovviamente, no? Il microfono peraltro è uguale a questo apparato, identico, lo vedrai, quindi Superstar 3009-2023. Sì, alla fine anche prima era così, cambiava marca, ma i microfoni erano gli stessi praticamente, cambiava solo l'adesivo davanti. E qui ce n'è una, allora, 3009, non so se sia proprio il modello nuovo, ce ne sono da 199, da 188 su eBay però, Io vabbè, mi sarei rivolto sempre al negozio solito, o FLQ oppure questo Technology Shop, che ha un prezzo migliore. Anche lì però, se vuoi la modifica te la fanno pagare, però vedi cosa ti dicono loro. Se la modifica te la fanno loro, la garanzia vale. Io avevo chiesto a Media Globe anche tempo fa, ho detto, ma se io volessi modificare questa radio che io prendo da voi, se me la faccio fare a voi, la garanzia mi risulta valida? Dice, se la modifichiamo noi sì, se invece lei se la compra così, poi se la modifica in casa è caro. Dovresti trovare la modifica così da internet e scaricarla, dai. Sì, guarda, tanto internet ormai è una fonte, ti ho detto, in certi tagli un ponticello, in certi premi uno o due tasti all'accensione, lo accendi, fatta l'espansione di banda. Mi pare che per il 7.900 fosse così, però io l'avevo preso già sbucciato, diciamo. Sì, gli ultimi ho visto che basta una combinazione di tasti, invece prima c'era da tagliare quel ponticello, che lo fanno vedere con qualche tutorial, qualche video l'ho visti. Per esempio nel 3009 normale, l'ultima versione del 3009 normale, quello con i componenti classici, la modifica di canali era tramite un ponticello, sai quelli che prendi con le pinze, un cappuccetto, no? C'hai di tre pin verticali, tre piedini, tu questo cappuccetto conduttivo lo togli dal pin 1 e 2, lo metti al 2 e al 3 o viceversa e espansi i canali. E quindi è reversibile, non stai tagliando nulla, lo puoi riportare alle connessioni normali. Però vedi, anche lì il consiglio mio è di lasciare i watt bassi, 4 watt, 12 SSB per pilotare eventuali cose. Sì, ho capito. Allora, questo invece è 796, garanzia 24 mesi. 10 euro di spedizione. Oppure, no, versione export. Più 10 euro. Qui chiedono 10 euro per la versione export. Sì, che lì in quel caso è il taglio di quel cavetto, di quel filettino bianco. Però, vedi, se lo fai da loro ti dicono che la garanzia rimane valida. Però c'è il problema di watt, quelli aumentano, potevano fare una cosa a parte. Invece, se ti ricordi, già una decina d'anni fa, fare modifiche su certi apparati era una rogna. Certi richiedevano, non so, taglio di cavetto, più dovevi togliere un componente dalla parte posteriore della scheda, tipo togliere un diodo, cioè dovevi un po' o disaldare qualcosa e tagliare, era più una rogna, ecco, poteva fare un laboratorio. Adesso è alla portata di tutti, diciamo. Sì, per 10 euro va bene, giocato, perché non rompi i sigilli e c'hai 2 anni di garanzia. Anche il negozio ti dà anche il software da scaricare, quindi non è, diciamo, con virus. Invece il sito AliExpress, lo sai, o com'era quell'altro sito, aspetta, 409, certi software dei Baobao, il computer riconosceva che c'era qualche virus o qualche malware, e quindi non bisognava fidarsi a installarlo. E i cinesi sono un po' filiendrocchia. Baobao, che li chiami, dai? Io li chiamo Baobao. Avevo intuito quello, eh. Ma comunque vanno bene anche quei giocattolini, eh. Oh, se penso ai soldi buttati, anche per quella roba lì. Mamma mia, quanti soldi buttati. Potrei aprirmi una bancarella, me lo sai. È il sabato, dov'è? L'ultimo sabato del mese, dove lo fanno? Fate l'emiciclo. C'è la bancarella dell'usato. E DMR cosa c'ha invece? PMR? No, di come domodossola. No, DMR nulla. DMR mi pare siano quelli amatoriali. Quei polymer digitali erano, come si chiama? Aspetta, quel modo digitale, aspetta, non DMR, ma porca miseria, oh, che non mi vengono più i termini. Era il digital PMR praticamente, ti volevo dire il tipo di codifica, ecco. Il medico, ce n'è gente, oppure come PMR non c'è più nessuno? No, quello digitale non c'è un'anima, è proprio il polmare, il PMR digitale, non ho mai sentito un'anima. Guarda, siamo stati io e Pomponio gli unici a Sassari, forse i primi, a usare un PMR digitale, dai, diciamo, non il modo classico analogico. Poi però alla fine, se non c'è nessun altro, non c'è ruota, capito? Allora, bella fine hanno fatto. L'altro giorno ho sentito qualcuno di propagazione, si riusciva a agganciare i punti, capito? Parlavo con qualcuno dei nostri qua, non mi ricordo la frequenza però, comunque sicuramente stavo dando i punti. Ah, ma i parrot, quei punti parrot, che parli e poi ripete? No, quei punti... come si chiama? Che usa il radioamatore, dai. Ma lì è zona off limits. Sì, infatti no, stavo solo ascoltando, c'era un nostro un nostro conoscente stava parlando con quello, io però non lo sentivo, sentivo solo a lui, l'altro non lo sentivo, non so perché. Ah, vabbè, è questione di ascolto. Stavo cercando di ricordare, allora, Folmar. Porca miseria, non mi vengono più i termini, vabbè che quella è una cosa che ho appena dimenticato io. Aspetta che cerco. Io pensavo DMR, che erano al posto del PMR, erano digitali, quindi DMR. Ricordavo così, ma ricordo male io. Allora, sì, quello DMR è più amatoriale, poi hanno anche altri modi, Iaesio c'è il suo modo, Icom forse c'è il suo modo, insomma si fanno la forca tra loro, D-Star, no? Tutte queste, ma forse il DMR ha preso più piede, non saprei, bisognerebbe chiedere un arrivatore. Allora, Digital Work, specifiche, adesso te lo dico. Mi? Si sente? Addirittura vado ad aprire la pagina Folmar, il link non mi apre la pagina, mamma mia come sono messi. Io ho problemi con Google, molte pagine mi esce la stringa che è impossibile aprire, cioè raggiungere il sito. Allora oggi sono rotto le scatole, ho scaricato un altro browser, Mozilla, adesso vado con questo, l'ho messo come preferito, vediamo un po', dai, se va meglio. No, comunque forse era quello che volevo dire, uno è il DMR, no? Invece quello dei PMR, quelli usabili liberamente, è DPMR, cioè Digital PMR. Forse io stavo cercando la codifica, perché i due sistemi sono differenti, uno è FDMA e l'altro è TDMA. C'è tutto un sistema di trasmissione che hanno loro strano. Uno TDMA, Time Division, non so, e l'altro FDMA, Frequency, non so, uno funziona, non te lo so spiegare, sono due sistemi differenti comunque. In uno c'è qualche intrallazzo con la frequenza che forse varia, e l'altro il time, non ho capito bene. Lì siamo oltre le mie conoscenze. Vabbè, anzi sei abbastanza informato tu, sei sempre stato informato su queste cose, sicuramente è una cosa che ti piace, quindi un po' di cultura te la fai. Cosa volevo dire? No, adesso mi sta scappando. Qualcuno vuole... Avanti il brecco? Ehi, Antonio, sono rientrato. Ciao Anto, cucinato, ho fatto tutto, Gianni è andato a portare il cane e qua c'è Franco. Vai Franco per Antonio. Ciao Antonio, come va? Bene, bene Franco. Sto mangiando io e il mio piccolo, si è dato da mangiare, e poi curibia della Sindria. Ma dimmi tu. Fa bene, l'anguria. A parte che di 70, e poi c'è un sacco di vitamine e cose varie. Oggi ne stavano parlando, fa molto bene. Antiossidanti, di tutto, va. Sì, fa bene già. Cavolo, mi piace. Io non ci abbiamo mangiato anche un po' di zuppa gallurese che l'ho comprata, ed è molto buona quella che stanno vendendo. Anche quella, un po' è un pochettino di frutta, di anguria. Quanto tempo ha adesso tuo figlio? Un anno e 7 mesi. Caspita, quindi ha voglia che mangia adesso, dai, caspita, sa già tutto. Mangia tutto o c'è qualcosa che preferisce? Beh, quasi tutto mangia. Buono, dai. Ci sono certi bambini viziati che se gli togli quelle due o tre cose, o anche i nipoti, gli togli la cotoletta, le patatine, buono, mangiano altro oggi. Chi ci mangia tutto? Arumabu? E fa pure inviatemi. Poi vi devo lasciare, che è arrivata la signora che mi dà una mano a scaricare la spesa. Dai, un abbraccio Antonio, ben sentito dopo tanto. Un abbraccio anche al piccolo. E saluto anche a Marco, dai, riprendi Marco. Ehi, ciao Franco, dai, sentiamo. Franco, bene ti arrivo lì. 3, 3. La radio è un po' compressa, il segnale è fortissimo, credo che sia oltre il 9.30. Va bene, dai. Sto usando una radio della muffa, dai, di camera da letto. Ok, dai. ciao ciao. Comunque va benissimo, dai, un abbraccio a tutti, ciao ciao. Ciao. Sì, sento la radio benino, ogni tanto sento come un po' di scarichette tipo il cavo, un po' di... e quindi ti abbassano un po' la modulazione quelle. Troia. Mamma mia, io non so come stare. O mi metto nella vasca a bagno direttamente, modulo da dentro la vasca piena d'acqua. Non posso fare altro. Guarda, io sto molto bene. Io sempre caldo, ma è una cosa ormonale, capito? È un problema mio. Io sento più caldo di quello del dovuto, di quello che c'è, capito? Quindi già le otto sono fatte. Adesso decido cosa cucinare io. Non ho idee. Non ho fantasia. Un po' di pasta a fare. Io anche una pasta. Diciamo che io ho riscoperto il riso. C'era un periodo che preferivo la pasta, il riso lo incornavo un po', adesso invece il riso basta cambiare un po' il tipo di roba che ci metti, il tipo di condimento, il riso mi sta piacendo abbastanza. Non so se faccio ingrassare meno, quello non lo so, qualcuno diceva così, ma bisogna vedere. Ma il riso al sugo, ma come lo fai? Come tu, c'è un po' di scarichette. Un po' di riso al sugo. Sì, sì, sì, in bianco al sugo, poi certe volte ci metto cose strane mie, riso, tonno e fagioli, quelle cose un po'... Non dico insalate di riso, una cosa diversa anche. Vedi, questo microfono lo mando in pensione, sta dando un po' di problemini e non lo uso tanto. Sì, lo so, ma guarda, la rosa, sì, la roba, anche non usandola, si sciabideggia. Che la usi, che non la usi, si sciabideggia. Come un baracchino nuovo, era nuovo, il microfono nuovo di trinca, un giorno vado a premere, scariche fortissime, non riuscivo a modulare. Beh, cos'era? Che si era un po' ossidato, pensa, tenuto nel cassetto e non tenuta la pioggia, tenuto nel cassetto, bene, ho dovuto disossidare il PTT dentro il mic. Come l'ho disossidato, è tornato perfetto. Cavolo, se non c'era umidità, né niente. E i materiali sono... Secondo me i materiali sono scarsi, anche dei baracchini, roba in economia, cioè roba fatta per non durare, poi ogni volta che devi aggiustarne uno, alla fine è come si fa, è un problema, qualcuno per aggiustare i baracchini ci scende in quel paese giù, come si chiama quello, ogni tanto lo nominate sempre, non mi viene il paese però, boh. Non me lo ricordo dopo. Almeno te li aggiusta. No, anche perché a seconda del baracchino che c'è, che ne so, per esempio la Intec non esiste più. La Intec aveva chiuso anni fa, purtroppo, dico io. A parte che pezzi di cambio già non ne mandava prima, adesso che ha chiuso non ne trovi, mi specie. Poi questi SMD, questi baracchini con componenti piccoli, non ne parliamo, cioè fai prima a buttarsi tutto a ricomprare l'apparato, mi ecco. Già lo so, ha chiuso la Intec. E da molto pure, perché un giorno, io anni fa, avevo cercato l'indirizzo e non esisteva più. D'altronde non portava nemmeno più baracchini, c'aveva solo un modello di baracchino, o due, e mi pare era l'899, Intec 899, l'ultimo che ha fatto, che lo potevi usare con le cuffie a microfono, no, col Vox, e poi ha chiuso i battenti. E sai cos'è, quando inizia a non portare più roba, a non fare più modelli di baracchini, a non avere più antenne, invece la Midland c'ha tanti modelli di baracchino, tanti modelli di antenne, microfoni, di tutto vende. Ma la Intec non è riuscita a rimanere a galla, ma tanto il baracchino ormai è morto. A chi li vendeva la Intec i baracchini? Vabbè, avrebbero dovuto fare altri progetti. Tipo la Midland si è messa a costruire anche di quegli avviatori per le macchine, per le moto, altre cose, si è messa a costruire. sì, tante cose, mi pare fa anche GPS per, sai, trekking, quelli che ti porti proprio manuali, no? GPS per orientarti, fa le dash cam per la macchina, fa le action cam tipo la GoPro, ecco, la GoPro dei poveri, vabbè, marcata Midland. Un po' si è espansa, invece l'Inter che non si è espansa molto e alla fine non è riuscita a rimanere a galla, dai. Poi chi lo sa, cattiva amministrazione. Guarda, tante ditte italiane hanno chiuso anche di antenne, ti ricordi? La Sirio, le antenne, adesso sì, trovi le Venom marcate con antenne, ma secondo me il marchio è stato venduto, capito? Cioè i cinesi ti comprano il marchio, fanno queste Venom di cacca, ci mettono la scritta con antenne, magari un vecchio CB potrebbe credere che la qualità sia quella dall'eco di una volta, invece no. Ma cosa? Non è più a manto, va. La cosa, la Sigma, cioè prima li faceva, ma vabbè, con antenne, vabbè. Ma non è più in Italia, è roba cinese. Ecco, la Sigma non so se esiste ancora, penso che comunque la Sigma antenne vera italiana non ci sia più. No, scusa, la Sirio, ho sbagliato io, Antonio. La Sirio c'è, la Sirio è, fa un bel di modelli. Certi a me sembrano cloni cinesi di altre marche, di altri stati. Comunque, la Sirtel, ecco, quello volevo dire, la Sirtel credo che non esista più da anni. La Econtenne, parlo di azienda italiana, la Sigma credo. Poi vendono i marchi, sì, ci fanno due cinesate, ci mettono le... E così le macchine, mi lo sai. Molte macchine adesso sono fatte in Cina, sono proprio cinesate, quelle vendono marcate Fiat, marcate... macchine francesi, Citroën, quello che vuoi, queste cose lì, queste elettriche poi mi... perché non lo so, ma carità, non lo so, vengono fatte in quei paesi lì, penso che la marca italiana mi è rimasta la Sirio, come quella che ho io, poi chi ci è rimasta altre marche, questa Grazioli italiana che è uscita da poco, ancora c'è la LEM che è made in Italy, ma molti sono scomparsi. Con quanto quella l'antenna che hai tu e che ho io, la Energy, allora ti dico, la Energy io quando l'ho comprata la GBC, io l'ho presa la GBC perché volevo prima vederla di persona, proprio toccare con mano, volevo vedere la bobina, le saldature e tutto, e lui ce l'aveva lì, ha aperto l'estremità, me l'ha fatta vedere, infatti l'avevo pagata 90 euro. Però almeno ho controllato che ci fosse tutto, che non mancasse viterie e tutto, eccetera. Cioè lo volevo vedere comunque dal vivo. Dove volevo arrivare? Se tu vedi la scatola che aveva la Energy, c'era una strisciolina attaccata con scritto Midland New Energy 5 ottavi. La scatola invece era una scatola anonima con la scritta generica in tedesco, poi Oceantenne mi pare, Oceantenne, non so come si pronuncia, che vuol dire antenna da base, anche lì secondo me sono antenne cinesi. La Midland la ordina, ci mette la figurina sua, la Sirio magari lo stesso la ordina e ci mette la figurina sua, però dubito pure che siano prodotte in Italia, quello lì lo sai, perché poi quell'antenna viene prodotta anche per un altro paese del mondo, con un altro nome, e se tu vedi un clone, allora questi cloni non sono fatti in Italia, non è Sirio fatta in Italia, Midland poi tanto meno, capito? Non è che ha preso il clone, perché questa è made in Italy, ce l'avrebbero scritto, no? Voglio vedere chi è delle due che ha preso il clone, io penso più quella che hai tu. E infatti là, sì, Sirio scrivono made in Italy, però a me sembra anche una cosa strana, perché ho visto cloni anche dell'antenna veicolare che ho io, della Midland, ce la fanno altre ditte, stessa identica, identico aspetto, cambia il nome. La Sirio non lo so, comunque troppi cloni di tante cose, perciò certe volte dubito che sia made in Italy. Oppure magari si fanno mandare i pezzi sfusi, poi te li inscatolano e dicono made in Italy, capito? Come le macchine, no? E dicono macchina italiana, no, magari è fatta in Cina, è assemblata in Italia, se si fanno mandare i pezzi sfusi, la assemblano in Italia e dicono che è made in Italy, ma non è vero, è una balla. Ma guarda, secondo me può essere. Può essere che questa Sirio sia made in Italy, perché c'è la fabbrica, quindi cosa ne avrebbero di non farla nella sua azienda? C'è la fabbrica artigianale lì, non ne avrebbero nulla, a meno che la Sirio non li costruisca anche per la Midland, perché magari c'è un'unica fabbrica che li fa anche per la Midland. E chi lo sa, questa scatola strana, anonima, Ocean Ten, chito in termine tedesco, metto, boh, questa scatola anonima, e poi questa figurina, Midland New Energy, metto, vabbè. E qui anche di altre marche, cosa ti volevo dire? Sempre di roba, di macchine, di radio, adesso mi è passato di mente, vabbè, se mi torna in mente già te lo racconto. Guarda, cosa c'è scritto? Made in Italy c'è scritto nella tua. E la scatola però l'ho buttata tanto, poi la Midland non produce, comunque sia la Midland non produce in Italia. La Midland non so nemmeno se sia americana o inglese, boom. Non ho mai controllato. Comunque no, la mia sicuramente è proprio mediterranea, no, proprio quella no. Boh, bisogna vedere dove sta il clone. Bisogna proprio vedere. Magari è la Sirio che l'ha costruita prima e poi gli altri hanno copiato, non lo so. Sì, infatti bisogna vedere il progetto originale di chi era. Per esempio le Venom. Hai visto, le Venom praticamente il clone del, perché una volta c'era la BA-27L, stessa cosa, tre radiali da 1,30 m, stessa bobina, stessa staffa, stesso tutto. E queste Venom dovrebbero essere della Sigma Eurocom, non la Sigma italiana, è Sigma Eurocom, quella inglese. Però esistono 10.000 cloni, anche lì secondo me loro mettono il nome Sigma Eurocom, però è fatta sempre in Cina. E poi, e beh, la mia era arrivata marcata Eco Antenne, capito? Eco Antenne, magari hanno pure rubato il marchio, cosa ne so, chi lo sa se il marchio è usato in modo improprio, se l'hanno rilevato, se l'hanno comprato, oppure se tutta roba, cosa ne so, se anche il venditore applica una fotocopia, no? del logo Eco Antenne, capito? Sarebbero capaci. No. Poi 10 anni fa le cose erano diverse di adesso, quindi poteva essere anche un'azienda italiana. Guarda, forse la scatola della Venom ce l'ho, però vabbè, non fa testo, a noi interessava la Midland. La Venom, vabbè, peccato, la bobina funziona, però la verità, l'antenna funziona, però questa bobina che hanno fatto non si può guardare. Ti ricordi, ci avevo mandato la foto, c'è l'anima del rocchetto del nastro isolante, questa specie di tondino di carranima di cartone, per questo filettino ridicolo, sottile. Ma non l'avrei messo sul tetto neanche per sogno. E poi Anto, senza contare la prova comparativa che avevamo fatto col profeta, cioè lui aveva la boomerang full size, no, la boomerang della LEM, no? Su quel palo, e attenuato con l'RFG in tutta zero arrivava a 8, no? Un segnale X, adesso non mi ricordo. Gli ho prestato quella, l'ha montata sullo stesso palo, credo, sì, che è mezz'onda, anziché un quarto d'onda, è mezz'onda, il segnale attenuato molto, attenuatissimo, tutto a zero, arrivava identica al quarto d'onda, quindi come vedi è un'antenna poco efficiente. poco efficiente, c'è una mezz'onda che rende quanto una un quarto d'onda, tanto vale tenersi il quarto d'onda. Infatti così ha fatto Gianni il profeta, cioè non aveva nessun guadagno da prendere la mezz'onda. La 5 ottavi poi chi lo sa, quella andrebbe provata, però secondo me non rende ancora meno della Energy. Bisognerebbe fare le prove bene, cioè chiedere un controllo in giornata, salire sul tetto, togliere l'Energy e montare la Venom alla stessa altezza e non più alta, più bassa, alla stessa altezza, chiedere un controllo e vedere con la riferina attenuata, vedere le differenze reali. Io non mi sono mai fidato a prendere quella. No, non l'ho mai voluta. Io l'avevo presa giusto per averla, la volevo mettere in campagna, la verità, però ancora non ho raggiunto un accordo. Antenna di scorta, che ne sa il vento rompe questa, certo è un'antenna comunque da usare come temporanea, come può essere una bazooka, un'antenna da usare temporaneamente, non definitiva. Uno la può lasciare anche definitiva, però se è poco efficiente, poi cosa vuol dire che abbia stazionari 1.1 su 200 canali, cioè, per dire, e cos'è un carico fittizio? Cioè il fatto che non abbia stazionaria non vuol dire che sia efficiente, capito? Perché tutti guardano qua, ha stazionaria 1 sta 1, non ha stazionaria è perfetta, una bomba, no. Però poi rende quanto la mezz'onda rende quando un quarto d'onda, allora tanto quasi tenere in quarto d'onda, capito? Ma basta lì, dai. Io non mi sono mai fidato a comprarla. Che poi adesso noi stiamo ragionando in termini, sai quanto cambia, quanto dovrebbe essere il rendimento dal quarto d'onda alla mezz'onda? 2 decibel. 2 decibel sarebbero un terzo di Santiago. Un terzo di Santiago, quindi uno dice non mi cambia la vita, hai capito? Un terzo di Santiago. Però è così. E invece noi la prova l'abbiamo fatta e non è aumentata di niente, era pari identicissima al quarto d'onda. E quindi lì, vabbè, uno ce l'ha, la usa, però. Vabbè, la 5 ottavi buona, mi vorrei anche. Se ti piace va più forte la mia Ringo. È probabile. E quindi mi diciamo, la Venom, se uno vuole spendere poco e vuole un'antenna sul tetto, comunque sia funziona. Poi a maggior ragione, le stazionarie sono sempre perfette, che strano, un carico fittizio, vabbè. E comunque stazionarie buone, poi salendo di grado Sirio e Energy, poi salendo ancora di grado la Tornado, non so se sia, è leggera la Tornado della Sirio, non so se l'hai vista, credo che sia una via di mezzo tra la Energy e poi quelle buone, che sarebbero Mantova, Sirio, quelle grosse però pesanti, non mi viene il nome, Sirio Blizzard, come si chiama? Super Lem, Mantova, quali sono le migliori, se puoi fare? Poi vuoi andare ancora più su, però come qualità dei materiali, non come, penso che comunque la resa sia quella. La Grazioli. Cioè ti costa un capitale, ti costa come di 250 euro la 5 ottavi, penso, non ho guardato i prezzi aggiornati, però c'ha materiale di prima scelta, bulloneria in acciaio inox, alluminio buono, trattamenti anticorrosione buoni, capito? Serve una garanzia, quella devi usare. Serve una garanzia. Per dire, guarda, già l'ho guardato l'altro giorno, già la mezz'onda Grazioli ti costa 200 euro, spedita credo, sì, spedì 190 e tanti, spedita sarà un 200 euro, 200 euro una mezz'onda, però è una signora mezz'onda, con materiali fatti bene, cioè che la metti ti dura 40 anni, d'altronde questa chicchia di antenna che c'ho io, è già 10 anni su, te l'ho detto, non ho detto, se durerà 2 anni, 3, si è ripagata, invece c'è già 10 anni. Upla. Vediamo se è caldo qua dietro. Ma provo a voltare la comodazione, la ventolina ha fatto il suo lavoro, dai. Ah, me lo puoi spogliare. Porca miseria quanto scalda questa radio. Anche se metti 4 watt, lo sai, anche se metti 3-4 watt scalda bestia. Probabilmente l'hanno progettato un po' male, lo stadio finale è progettato male. Ma lo puoi squillare il telefonino, Marco? Non lo trovo. Ecco, buonasera. Ciao Gabino, registrato. Hai detto Antonio, ti faccio squillare il telefonino? Sì, un attimino. Un attimo, Gabino, rientro subito. Buonasera a lei, buonasera Gabino. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera e ben sentiti. 9.30 qua da me, Antonio, eh? 9.30. Ah, cioè, sicuramente stai arrivando anche tu così. Adesso qua lo Smith non ce l'ho. Sto nella ciappo, un cellulare nella ciappo. Gabriele, ma non è neppurato d'uno? Ah? Non sa niente lui. Vabbè, adesso me lo fanno. Mi sta squillando, io c'ho a vedere. Eia, appena lo trova. E beh Gabi, stavamo parlando di antenne con Antonio. Le classi, no? Le classi sociali di antenne, dalle più derelitte fino alle migliori come qualità. E penso che attualmente la Grazioli sia quella che usa i materiali migliori. Poi magari la Regia è quanto una Mantova, però i materiali sono eccelsi. Perché guarda che le Mantova hanno perso molto molto. Le ultime turbo, la gente si lamentava che la roba si ossidava prima, cioè mi avevo reso l'idea, vai Gabi. Sì, ciao Marco, buonasera, ben sentito. Io sto usando la Grazioli, io adesso sto usando la Grazioli, la FE10V, la 5 ottavi, adesso è quotata intorno ai 260 euro con l'antenna. Allora, io ti posso dire una cosa Marco, che poco fa vi stavo ascoltando con Superstar 3009, quello vecchia serie, vedi lì ho una Delta Loop fatta, ma proprio fatta con un cavo da 1,5 polarizzata verticale, e niente, poi presa e messo nel cavo d'antenna TV, ma giusto per provarla è a 3 metri d'altezza, è 1,80 m di cavo d'antenna TV, e lo ascoltavo quasi con lo stesso segnale di questa antenna, quindi dalla Grazioli che ci ho collegato qua nell'HF. Sì, sono entrato per quello, sono entrato a salutarvi. E poi la Grazioli adesso guarda, se ce la faccio a settembre mi prendo la G-Max, mi prendo la G-Max della Grazioli, quella con la carica centrale. Avanti Marco, ancora una buonasera. Cappa, sì, HP. Sì, quella credo sia il top del top del top. Praticamente è una 5 ottavi con sopra messo in fase, così si dice, un quarto d'onda. È importante anche come dimensione, veramente importante, però credo che sia il top. Non so quanto guadagni, dovrei vedere delle prove comparative su YouTube, se le hanno fatte, tra la Grazioli 5 ottavi e la G-Max, quella lì, per capire se qualche decibel riesce a rubarglielo, ho capito. C'era un radiamatore che aveva fatto un bel di prove con varie antenne, con varie Grazioli, tra Grazioli e Grazioli, la mezz'onda, la 5 ottavi, però non mi ricordo se ci fosse quella prova lì estrema di quella grande. E quindi Gavì, come dicevo, certe antenne io troppe volte sento, che ne so, prendere una Venom, mettere sul tetto, basta che le stazionarie siano uno sa uno, è una bomba, è una bomba, è una bomba, poi dura la Venom da magari da Natale a Santo Stefano, e poi l'efficienza dell'antenna non vuol dire stazionarie basse, io l'ho sempre detto, tutti lo dicono, cioè chi lo sa lo dice, è inutile che abbia 1,1 di stazionarie e poi, come ho detto prima, renda quanto la Boomerang un quarto d'onda. Prove fatte da noi con Profeta, che è da un po' che non sento, capito? L'efficienza dell'antenna è importante. No, ma allora io ti posso dire una cosa Marco, che la Grazioli, la 10, questa che sto usando io, non è che abbia più, non è che rende di più delle altre, però ti posso dire questo, che io ogni sei mesi butto giù l'antenna per fargli la manutenzione. Non sai cos'è l'unica manutenzione che faccio io? Passargli un po' di acqua col sapone e pulirla. Gli cambio il vulcanizzante e non ha, eppure io sono faccio a mare, e non ha un'intaccatura di salsibile, niente. Su quello è un'antenna che è riuscita tantissimo. La G-Max ha la garanzia di frega 3 dB, la garanzia di 5 dB di guadagno, la G-Max ne ha 8, è stata provata, di frega 3 dB, di frega 3 dB. Marco, com'è la radio? Troppo compressa, troppo amplificata, va bene? Allora, qua in distanza per me va bene, conta che sto utilizzando un CRT 9009 che ha un altoparlantino un po' strano, di materiale tipo sintetico, e un po' non è delle migliori ricezioni con questo apparato, però io ti sento bene, il segnale è 8, bene o male arrivi lo stesso segnale con tutte le radio, quando entravate sul 12 che magari carellavo, bene o male tutti i baracchini segnano lo stesso, conta che a LED, quindi i mezzi Santiago non li segna, o è 7 o è 8 o è 9 eccetera. Sì, quindi 3 decibel sono mezzo Santiago, che per qualcuno è poco, per qualcuno è tantissimo. Sì, la qualità dei materiali di quella è il punto forte di quell'antenna. Uno dice, ma costa un bel, ma dura anche un bel. Allora pigliatevi le Venom, le Energy, che questa già, capì, non so se stavi ascoltando anche questa, ho detto, se dura 2-3 anni si ripaga abbondantemente. E è già 10 anni che è su questa antenna. Un'antenna di plastica, come la chiamiamo noi, che non gli avrei dato 2 anni. Guarda Marco, tu mi stai arrivando, sai, da 9.15 a 9.18, io qua ti sto ricevendo da 9.15, fai a 9 a picchi positivi a 9.18, quindi dai, anche qualcosa, secondo me qualcosa in ricezione cambia, considera che io sto andando con 40 watt, tu non so con quanto stia uscendo, ma non credo che sia oltre gli 8 watt. Ma quanto ti ricevo sempre, poco fa il segnale 8, 7, 8 di liscio, adesso hai qualcosina attaccato, sì, l'ho visto, avanti io lo puoi far girare per Antonio. Allora, con questo apparato io ricordi potrebbe essere un 13-15 watt di portante muta, fai 15 watt dai per eccesso, però ho cambiato una cosa, sto usando l'antenna diretta anziché usare lo spezzone con quel cacchio di filtro anti TVI, che voglio ricordare che mi rubava ben un watt, quando io ne avevo 4 di apparato, quello ti rubava un watt, e quindi uscivi con 3 watt alla fine. Adesso sono antenna diretta, proprio antenna diretta all'apparato, e sarei curioso, se tu hai un minuto di tempo, tanto il 3009 è già acceso, di mettere il 3009 e vedere con i 4 watt soliti, non so se tu ti ricordi quanto arrivassi io con 4 watt, se te lo ricordi proprio scambio l'antenna e vediamo con l'antenna diretta se ho guadagnato qualcosa o se perdo meno rispetto a una volta. Vai, adesso sei 9.15 a 9.18, poco fa quando ti stavo ascoltando eri segnale 7.8, vai pure Marco, tranquillo, vai, fai lo scambio e fai chiamata. Ok, Antonio, nel frattempo riprendi. Gabino qua mi arriva molto di più, mi arriva. L'avevo guardato l'altro giorno, era 9.30 qua. Va bene che noi siamo molto più vicini, Antonio, anche tu qua sei 9.30, tu fai 9.25, modulati 9.30, hai dei picchi positivi e la radio va bene, io ti ascolto benissimo, vabbè, ti sto ascoltando una cosa un po', diciamo, una cosa un po' complicata, però io ti ascolto bene, nonostante siamo in AM, nonostante c'ho un po' di casino di roba di scarica elettrostatica qua vicino per colpa di questa cabina. La radio governo va bene, considera che sto usando due microfoni, un SM58 polarizzato a XY con un Neumann. Sto entrando dentro un mixer, dentro il Soundcraft V16 mixer digitale, e poi sta andando con 450. Vai Anto, dimmi come ti sta arrivando. Bomba, sì, una bomba, poi ti sto ascoltando con la cassa esterna per poi capire quanto arrivi, addirittura ti hai messo quello, ti hai messo. Figo. Sì. Ho il sto usando il Neumann da studio. Sto usando il Neumann da studio e un microfono da 1400 euro. Come prima voce. E poi come seconda per le basse ho messo un classico Shure SM58 in doppia asta e tutto dentro al mixer ed esco col master e vado alla radio. E niente, sta andando così. Giusto per vedere questa cosa in AM, com'è. Una bomba, una bomba. Una buona. Eccomi. Sarebbe sentito. Ciao Tino, eccomi. Allora, Superstar 3009 omologato, 4 watt, antenna diretta però, senza spezzoni, filtri, filtrini, cartine, eccetera. Gabi, com'è? Se ti ricordi il vecchio segnale però, 9.5 sì, adesso. Prego il filtro. No, l'ho tolto di mezzo qua, per adesso è tolto dalle scatole. Anche tu sei 9.9, modulato tende al 9.5, modulato tende al, però vedi l'altro smitter digitale mi segnava 8 e sono sempre più zecchi. Questa è la lancetta, ancora è passabile. Vai Tino. Con la buona sera, con la buona sera a tutti, non so neanche chi c'è, ho sentito a Garvino quando stava dando le dritte. A mio parere, Garvino, sei un trombone. Un trombone è un parolone. Vabbè, era meglio con quello più economico, però la radio era migliore. Sarà forte la radio, purtroppo qua posso abbassare anche il volume microfonico, però vedo un pochino che si è migliorato. No, vabbè, molti bassi, molti... giusto per farti capire. Mentre invece Marcolino, sempre trimpante, ciao Antonio, anche a te, buonasera. Buonasera anche a te. Cappa, va bene, comunque sì, migliora anche la ricezione con l'antenna diretta. Adesso io sto sperimentando per vedere se qualcuno si lamenta dal TVI. Se nessuno si lamenta, rimango così. E poi comunque è tutto omologato qua, cioè non sono liscio, non sarebbe un problema mio anche, capito? Bene, volevo chiedervi, in tanti anni di frequenza, qualcuno ha mai provato la Sirio, come si chiama la nominata prima, la Sirio Tornado, per capire se una classe leggermente superiore alla Energy per esempio, però pesando poco e leggera come antenna, temo che l'alluminio sia sottilino, lo stesso come la Energy. Nessuno l'ha mai provata? No, io no, io sono sempre con la brutale Mantova 1, non so se l'ha provata Gavino. Gavi, io ti consiglierei un pochino più di amplificazione sugli alti. Aspetta un attimo che sto facendo una cosa. Purtroppo è un'equalizzazione che ho dato per, lo sai, per andare in banda laterale, quindi magari qua in AM sta dando un po' di fastidi, cioè in AM io è già tanto che sono in AM con questa radio, in AM da un po' di male risulta un po' molto corposa di basse, e adesso c'ho MC60, vedi un po' se va meglio o se va peggio. No, cambiato, è più nitida la cosa. Adesso c'ho l'MC60. Marco, tornando alla tua domanda, a quanto si dice nei forum, l'antenna, la Tornado, ma non si lamenta nessuno, cioè non ci sono delle lamentele, è un'antenna anche abbastanza leggera, è un'antenna, ma io se uno la vuole prendere, io la Tornado la consiglierei la Tornado. Allora, tu consiglia, io ho una GPS, Sirio GPS, quella con la GPE, la 5 ottavi, nuova di pacca, l'ho provata, e ti posso dire un'antenna leggera, e la mia sfortuna, la fortuna della sfortuna, che l'ho installata, e la sera si è messo un bel maestrale di quelli belli, l'antenna si piegava, l'antenna piegava molto, infatti ho detto oggi l'ho piazzata, questa antenna è bestemmiata, e domani la butterò via. Però domani mattina sono salito sul tetto con un assistente per piegare l'antenna, sono salito e c'era l'antenna dritta, perfetta, ha fatto una bella metralata forte. Quindi io l'antenna, anche questa Sirio, queste, io le consiglierei, perché alla fine mettere un'antenna come quella che sto usando io sul tetto, diciamo che anche un po' c'è in campagna, va bene, no, se cade, se dovesse cadere fa danno a me stesso, però metterla in un palazzo con un tubo normale, questa qua, la grazia dell'antenna è quando soffre a vento non flette, però dovendo mollare il tubo di sostegno di lei stessa e cadendo a terra fa danni, arriva una bella fruttatina. E niente, anche quelle Sirio, quelle 5 ottavi vanno benissimo, tanto pure per il locale, ce n'è anche per i porci. Vai Antonio, riprendi. Io quella ce l'ho io adesso, ce l'ho installata io, quella che hai tu, è proprio questa che sto modulando io ora. Sono antenne che vanno bene, sono antenne economiche che paghi 50, 60 euro, 70 euro, ma alla fine non ti interessa nulla. Se hai la possibilità ogni 6 mesi, ogni 4 mesi, ogni 7 mesi di prendere e buttarla a terra e dargli una piccola revisionata, quella è un'antenna che va bene. Quelle antenne lì, l'unica cosa che c'è da farli è, quando le compri, mettili subito le viti in inox. Vai da Bri, come spendi 1,50 euro, compri 12 viti in inox, 12-14 viti inox e gliele cambi. E allora puoi anche lasciarla sul tetto, bella isolata, bella fatta, tutta con i dovuti modi. E sono antenne che funzionano bene, Poi, del resto, non lo so, io ho questa qua, al momento mi trovo bene, questa grazia le lascio lì. Vai Marco, riprendi, e dopo fai girare il piattino, io faccio un altro paio di passaggi, poi vado a mettere qualcosa sotto i denti. Cappa, sì, quell'antenna lì che hai tu, GPA o GPS, con la 5 ottavi è praticamente uguale a questa, cambia solo quella gabbietta antistatica in punta che io non ho, e poi la Sirio ti dà quei manicotti da mettere dove ci sono i viti, tra un giunto dello stilo e l'altro, sì, quale te le dà? Possono aiutare a robustire il tutto. Eppure quell'antenna lì a molta gente gli è durata da Natale a Santo Stefano. La butta, mi pare, Antonello Di Ossi, credo ricordare, e lì si è interrotta la saldatura tra stilo e bobina e non si riusciva a risaldare. A Natalino li si riempiva d'acqua, nonostante credo l'avesse isolata. Anche un radiatore l'ha avuta, però gli è durata pochissimo, poco e niente, e perciò io ero un po' stupito della durata di questa qua, cioè, il bello sì che flette, perché tipo cala la pesca, cioè è sottile, è molto sottile, diciamo flette un po', però essendo più sottile anche offre meno resistenza al vento, e quello è un punto a suo favore. Ecco, io sono curioso di sapere la Venom se sarebbe durata quanto questa oppure meno, perché la Venom sembra ancora più risicata nei materiali e secondo me anche nello spessore proprio del metallo dello stiro, però non avendo la testata pari pari sul tetto non lo posso dire. Ascolta, invece di questa antenna, ve la ricordate quella J-Pol? Ce la dovrebbe avere a Sassari solo una persona, Carlo, e prima ancora ce l'aveva Claudio. Quella lì come la considerate? Se l'avete provata, se l'avete letto, non so. Dai, Gavino. Sì, dopo rilancio più io, dovete rilancio io Tino. Guarda, io ti posso dire una cosa, la J-Pol io me l'ho costruita, se sai per cosa, per il PRM, la J-Pol per il PRM. Sì, perché poi sono antenne molto molto molto buone, anche le J-Pol. A me piacciono. Io l'ho fatta per il PRM, me l'ho costruita io, lo stilo superiore, diciamo lo stilo della misura superiore di 47 cm, ripiegato giù a ferro del cavallo di una misura di 13 cm, quello più corto. Trovato il punto di accordo ed è un'antenna ottima. A me lo stesso la Geppol piace, però è un problema, perché dopo che ti siedi in Mercedes, andare di nuovo su una Fiat è un po', viene male. Riguardo, io parlo sempre dei materiali, Marco, sempre dei materiali, niente di più in trasmissione, niente di più in ricezione, però i materiali sono quelli che contano. Alluminio scheduolato grosso, alluminio di prima qualità, non di prima vecchi tempi, alluminio di prima qualità, ed è... Io la Grazioli la consiglio perché è un'ottima antenna, adesso ripeto, a settembre vedrò di prendermi la regina di casa Grazioli. Signori, io vi devo lasciare perché mi hanno chiamato per pronta la cena e poi ho anche un po' di fame. Se ci siete riprendo dopo, o altrimenti sono... A me mi trovate a 27500 su a 27555, io ho il monitor di lì. Se volete fare chiamate in banda, io sono lì. Buonanotte, buona cena Marco, buona cena Antonio, io rilancio a mio fratello Nettino, che lui sicuramente cena più tardi, ed è anche un po' affamato, sicuramente era a lavoro. Vai Tino, te rilancio il mic, io chiudo e non riprendo, causa forza maggiore, andata di mandibole. Ciao, a dopo se ci siete. Ciao Tino, alto il volume Tino, c'è il volume basso là, adesso lo alzo e collego il microfono, ok? A dopo, buona serata. Meglio. Va bene Gabino, dai, lo prendo io. Ok, buona carica, buon tutto, va. Se coincide è più tardi, no, io mangio più tardi, forse che adesso non soffro neanche a mangiare qualcosa. Se sentite rumore fastidioso ditemelo, che c'ho il cane a fianco, sta autoventilando. No, io consiglio, Marco, io consiglio la Grammazza, l'autocostruita con una canna fresca, poi tutta incelofanata e messa bene con adesivo trasparente, studia anche le pinte 30 dB di guadagno e va benissimo, così almeno studia anche il correme. Ciao Gabino, buona cena, buon tutto eccetera, e non ho sentito il giorno passaggio che ero distratto qua. Gabino, sentiamo il possibile, ciao, buon tutto. Ho detto Marco che io consiglio la Game Master, quella autocostruita, tutta incelafonata, innastrata, con nastro trasparente, una canna appesa, i tuoi 20-30 dB di guadagno, ma almeno la QRM va bene, capito? Ma per carità. No, non ti piace, né? Non ti piace, là. No, vabbè, io... Anche la Game Master, no, sì, è bella, silenziosa, stazionaria, però, no, non so, questa mi sembra un'antenna in plastica veramente, se mi piace l'alluminio, a me questo tubo di plastica più un ciclo che è fibra, con questo filo interno, non mi ci va, non lo so, preferisco l'alluminio. senza ombra dubbio, qualsiasi tipo di alluminio. No, avrei voluto sentire un parere, adesso dopo vediamo se riscontrare. Questa J-Pol che è alta, adesso non mi ricordo la ditta che la produce perché non è molto conosciuta quanto le altre. Alta 8 metri o quant'è, no? Però tu sai che quella J-Pol lì, la prima parte lunga circa un quarto d'onda, non irradia. E quella sezione lì dove vedi quella cosa parallela è fa da accordatura, mia accordatura, adattamento, quello che vuoi. Quello che irradia è sono i 5,50 m più in alto. Allora mi chiedo, ma non è che alla fine alla stessa resa di una mezz'onda messa, quindi 2,5 metri, 2,70 più in alto su un palo, mi chiedo quello. Il bello è che è silenziosa, quello sì, che ti elimina molto il QRM, però quella almeno è di metallo, capito? Quella lì, porca miseria, se ricordassi la marca, vabbè. No, io vabbè, la grazia di quella di Carlino, sì, va bene, come ma l'ho sempre vantata fin dal primo giorno che l'ho vista, l'ho associata molto alla Lampada, magari anche più superiore della Lampada, e ci stavo facendo un pensierino, ma un po' alla fine, ma voglio dire, non c'è attività, non c'è nessuno, guarda, in quanto ho vista questa qua la lascio, poi se un domani dovessi anche cambiarla, provarci che vado sulla Grazioli, anche perché tanto per me no, che non se ne trovano quasi più, no, è un'antenna molto robusta, molto insomma, resistente alle intemperie, quindi ecco perché ho sempre avuto questo tipo di antenna qua, anche perché io sono circa 200 metri di altezza dal livello del mare, quindi non è che l'aria salmastra io la prendo in pieno. Ah, tu non sai che tu andai in Sant'Ella, a me che non è importante, ma è di piume, chissà bomba o meme, è un'antenna veramente ottima, e chi ce l'ha non la dà nessuno pure, è veramente ottima questa antenna. Ma di quale antenna stai parlando per quanto? La G-Ball. Ah vabbè, no, non l'ho mai provato, non lo so. Chiappa, non è neanche una 5 ottavi, quello mi sembra che sia 7 ottavi, non mi ricordo. Però ti posso assicurare, chi l'ha provata bene è un'antenna che viaggia, ma viaggia vero per me. Sì, quella lì, 7 ottavi, sì. Però appunto, ripeto, la parte che radia è quella di sopra, quella di sotto fa adattamento, mi chiedo se abbia tutto questo guadagno. Il guadagno decantato, perché poi ti faccio il paragone tra te e la Tino, sicuramente tu avrai conosciuto, sentito dire la Vector 4000, la Salyut, te la ricordi la vecchia Salyut, che poi sarebbe la Vector, praticamente una 7 ottavi d'onda o 6 ottavi, adesso non mi ricordo esattamente, è quella che c'ha quella specie di cerchietto alla stessa altezza e poi queste stecche laterali che vanno verso la base, no? E quella prima parte è sempre la parte di adattamento, no? di impedenza, però irradia dopo dal cerchietto in su, capito? Dopo il cerchietto irradia. E so che c'è un barasone di antenna di 8 metri, 8 e mezzo, una cosa imponente, capito? È sempre esistita, quindi non hanno inventato niente con la quella J-Pol nuova di quella marca strana. Se ci fosse Carlo in radio mi potrebbe dire la marca. Però ripeto, magari tu scopri che messa su palo, e vabbè, quelle sono prove, non posso dire nulla, sono prove che andrebbero fatte però pari pari, cioè ne monti una, chiedi un controllo, metti giù, piazzi l'altra, capito? No, farlo a distanza di anni, di secoli, quando magari il cavo ormai è cotto e stracotto, quando è cambiato radio, ha cambiato watt, perché guarda che un bel di gente non fa, non chiede i controlli con gli stessi watt, con lo stesso cavo, cambia del tempo, alla fine non fa, le prove non fanno così. Vabbè, ma io ho fatto la prova, stessa fase, stessi watt, un'antenna a fianco all'altro, quindi ecco perché dico quello che dico, perché l'ho provato. Una persona l'ha provata, una persona, e c'era la differenza, e come? Cioè, l'ha provata davanti a me, prima ha commutato con quella lì, cioè ha commutato con la Mantova e dava un risultato, ha commutato con quella e dava un altro risultato, le antenne erano vicino all'epoca quando modulava, però c'era la differenza, c'era veramente, ecco perché te lo sto dicendo, non sto dicendo cose a vanvera. Però vedi, anche lì l'antenna non è sullo stesso palo, e tu sai che anche come marramobile tu sei in piazzale, segni l'antenna alla macchina, ti sposti di un metro o due e il segnale passa da fondo, un segnale ti passa, che adesso, da 9 a 5, da 5 a 9. Perciò dico che andrebbero provate sullo stesso palo le antenne. Certo, non le puoi provare commutando, prima le piace una, poi la abbassi, monti l'altra, capito cosa voglio dire? Basta che ti sposti di pochi metri e magari cambia tutto. Ma lo so, cioè, mi pare che era anche più bassa la Gimbal. Era anche più bassa. Io ho visto la differenza, ho visto la differenza, prima ha fatto la prova con una e poi con l'altra, e c'era la differenza, e te lo posso assicurare. Poi quella lì l'ha venduta a Carlo, quella antenna lì, e ti posso assicurare che la differenza c'è, neanche notevole. Beh, scusate signore, ma devo uscire fuori a preparare il mangiare ai cuccioli, quindi magari se entro più tardi, dai, se ci siete. Ritenetevi salutati. Ciao. Io sento roba sotto. Ciao Tino, buona preparazione. Anch'io in realtà, cavolo, dovrei inventarmi qualcosa per la cena. Vabbè, intanto ne mangiamo un po' più tardi. Ciao Tino, di nuovo, buona proseguimento, buon tutto, buona cena. Ci sentiamo se capita. Anche io poi di sera non rientro, non ce la faccio. Adesso rilancio Antonio. Antonio, ieri è entrato Pomponio, però erano già le tipo 9, 9 e mezza, era troppo tardi. Antonio ha detto ciao, io mi dicevo Gandini, ma accendo la TV e boh. Senti, cosa sotto? Il cane, Marco, il cane che sta soffrendo il caldo. Il cane sta soffrendo il caldo. Lo sì. Ah, respira affannato, lui è. E allora, c'è a 2 metri da me, però sta facendo così, sì, lui. Poi anch'io, il mio è una cosa ormonale, però io sono in boxer, ma non sto bene, c'ho caldo, io sento più caldo del dovuto. Peraltro ho dimenticato anche di aprire le finestre, ancora è tutto sigillato, fuori ci dovrebbe essere fresco, almeno spero. E così apro tutto e rinfresco la casa, dai. Dai, di nuovo, buona serata, buon tutto e ci sentiamo. Antonio, vide in compattate, poi c'è nato già, no? Ma, sì, ho già mangiato io, anche Gabriele ha mangiato. Aspetta che sta suonando il gong. Mamma mia, adesso lo spengo, era per provare se funzionava ancora. Qui gli orologi da parete, mio pendolo. Ah, io ti si chiama gong, questa cosa. No, lo chiamo gong, per dire dong, gong. È un orologio a pendolo cinese di quelli da 13. Beh, oggi qualcuno è entrato, vedi? Gianni, tu. Franco è entrato anche, poi quelli dalla bara mobile, quelli da Ittiri, vabbè, loro stavano facendo la prova più che altro, e così, comunque se puoi, non so, disossidare qualcosa, perché ogni tanto quel cavetto, quel microfono ti dà un po' di scariche, potrebbe essere o il TTT o lo spinotto che va alla radio, non credo il cavo dentro, quello è raro che lo faccia, a meno che non siano vecchi di 50 anni, ma... Ok, dai, ci sentiamo. Buona serata, buon tutto. Ciao, ci sentiamo, ciao. Buon tutto, buonanotte.